Baldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. Buon pomeriggio, ben ritrovati, bentornati qui su Radio Contrabanda per un'altra puntata di Zibaldone. Cominciamo con un po' di musica, anzi con un po' di cumbia, meglio dire. Si attasca un pistolero, nunca sabe che destino tendrà, si lo hacen pronto con prisioniero, o si alguien lo salvará. Botas al hombro, recto il sombrero, no tengo miedo, no asustará. Yo soy un indio, soy pistolero y siempre vengo del fuerte Apache. Yo soy un indio, soy pistolero y siempre vuelvo al fuerte Apache. Cuando se encanta un pistolero, sabe que destino tendrá, si encuentra rubio un extranjero que en el paso lo llevará. Botas al hombro, recto el sombrero, no tengo miedo, no asustará. Yo soy un indio, soy pistolero, siempre vengo del fuerte Apache. Yo soy un indio, soy pistolero y siempre vuelvo al fuerte Apache. Gli zoccoli del cavallo, un po' di pistolettate. Guiana il pistolero si intitola questo brano con cui apriamo lo Zibaldone di questo 5 luglio, prima puntata di luglio. Un po' di cumbia ci sta proprio bene per cominciare, è vero o no Banzo? Buon pomeriggio e bentornato a Zibaldone. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Effettivamente cominciare una puntata con delle pistolettate è ideale, ma la cumbia è musica di un paese tropicale, quindi possiamo supporre che vada bene per l'estate. Questo brano di Gerardo Balestrieri, del quale si possono dire moltissime cose, però sicuramente non che manchi di eclettismo, perché ormai lo abbiamo visto spaziare fra i generi più diversi. Assolutamente. Cumbia, 8 pezzi facili, così si titola questo suo nuovo disco uscito proprio questa settimana, e così lo presenti in poche parole. Questo è il disco che ho scritto in più breve tempo. Una canzone al giorno, musica, testo e registrazione, tutto in 24 ore. Un concept album, una bolla, una nuvola, un mare. Andrebbero ascoltate tutto di seguito. 30 minuti di cumbia per 8 pezzi facili. Uyana y el pistolero era il brano con cui abbiamo aperto, e è il secondo in realtà che vi facciamo sentire di questo album di Gerardo Balestrieri, perché già qualche settimana fa avevamo proposto un singolo che anticipava questo nuovo album del... La cumbia de Felipe. Bravo, sei Steven, sempre sul pezzo. Se mi permetti, sì, sempre sui pezzi facili in questo caso. Se mi permetti, tornerò alla mia antica abitudine di descrivere copertine di dischi alla radio, sì. Questa cosa sinestetica. È facile Gerardo questa volta. Come? È facile questa volta. Esatto, sono tutte copertine molto minimali, monocolori, perché i vari pezzi sono presentati ognuno con un colore diverso, come fossero singoli video sui video di YouTube. E però c'è un dettaglio che mi piace molto: in tutti quelli che ho visto, in alto a destra c'è scritto 90 battiti per minuto, 90 bpm, per suggerire insomma che se volete ballare della gabber, ecco, questo non è il disco più adatto, ma d'altronde sono cumbie, quindi cosa vi aspettavate? I bpm sono quelli, e Gerardo ce lo ricorda. Eh sì, è tutta rossa la copertina del disco di Gerardo Balestrieri. È una puntata molto musicale quella di quest'oggi. Banzo, vuoi dire tu ai nostri ascoltatori qual è il titolo? Esatto, il titolo, no, esatto niente, sì, lo dico, il titolo della puntata è Le storie assurde di Bobo Rondelli. Non ci siamo probabilmente sprecati in fantasia, ma Steven, a volte i titoli devono essere referenziali, cioè devono spiegare con chiarezza il contenuto della puntata, e in questo caso siamo stati insuperabili, perché sarà con noi... Bobo Rondelli, bravissimo Banzo, esatto. me l'hai messa su un piatto d'argento, che ha pubblicato, è uscito da poco, nel mese di giugno, il suo nuovo album. Mancava da qualche anno un nuovo disco di Bobo Rondelli. Il nuovo disco si intitola Storie Assurde, quindi insomma le storie assurde di Bobo Rondelli sono le canzoni che ci ascolteremo nella prossima mezz'ora, 40 minuti, e ovviamente anche le chiacchiere che faremo con Bobo Rondelli, che è già in attesa di parlare con noi e... con cui parleremo e che potrete ascoltare dopo un primo brano. Il brano che apre questo disco, che Banzo, è una cosa che è un po' il sogno di tutti, essere mantenuto. Ma guarda, sì, poi no, diciamo che non magari... sei d'accordo? No, beh, è complesso, perché ci sono, sai, quei sensi di colpa instillati dall'etica del lavoro che ti ha trasmesso la famiglia, però sì, dai, sì, hai ragione, sì, è un po' il sogno di tutti. Dai, allora andiamoci ad ascoltare Mantenuto, il primo brano di Bobo Rondelli, poi ce lo racconterà lui davvero se è un mantenuto, se vorrebbe essere un mantenuto o che altro. Storie Assurde è il titolo del suo nuovo disco. Ho spedito su di un treno i miei pensieri via lontano, ora viaggio solamente con l'aeroplano. E alla sera coi domestici beviamo del buon vino, e rientro nel tuo letto piano pianino, perché se dopo ti svegli vuoi fare all'amore. La mattina tu ti strusci con le tette, che a vederle sembran proprio pugne secche, e i tuoi capelli unti grigi fosforosi color del topo, che a sfiorarvi fanno effettivamente schifo. E poi chiudendo i miei occhi noi facciamo all'amor. Mantenuto, ma che pacchia, ma ammazzate. Buonasera, signor Marcello, è venuto anche lei? Sì, sono stato invitato, ma non so nemmeno da chi. Ma scusate, ma che ci faccio io qui con tutte queste donne da rottamare, scusate? Veramente pensavamo che un po' di fica la portasse lei. Sì, io se c'avevo la fica stavo a casa mia, mica venivo qui, scusate, ma che ci faccio io qui? Era bello quando ti sentivi male, con lo yacht fave orge in alto mare. Il dottore disse che per te era finita, l'indomani brutta vecchia sei guarita. Ora ti senti più forte e vuoi fare all'amor, ma truto, ma che pacchia, ma ammazzatemi la vacchia. Battista, ovaccio, ha preparato la doccia per il ramarro. Mi raccomando, foglia piuttosto freddina, tanto quella non si ammala mai, non si ammala. Oddio, che palle, che mi cravia. Oh, che noia. Oh, come mi sento triste mentre mi faccio queste piste di coca. Sarà perché me ne è rimasta poca. E questo è il primo brano che vi mandiamo in onda di Bobo Rondelli, si intitola Mantenuto. Che bel album, Bobo, storie assurde, e che bellissima questa canzone. Cioè, voglio dire, è una meraviglia. Ho riso tantissimo quando l'ho ascoltata, ma prima di questo ti do subito il benvenuto. Bentornato a Zibaldone, a Bobo Rondelli, è un piacere enorme riaverti qui con noi. Ciao Bobo, come va? Anche mio Steven, davvero. È un po' che non ci sentivamo, sono contento di risentirti, insomma, anche di parlarti del disco, ma quello sì. Anche meno, dai. No, anch'io sono stracontento di risentirti e di, tra l'altro, sapere, insomma, era da qualche anno che non uscivi con un disco nuovo, no? Perché, voglio dire, sono passati 4 anni, se non sbaglio, 3 anni? Forse tre. 2021, ma... Cuore Libero, no? Prima c'era stato Anime Storte. Sì. E poi avevi fatto, insomma, una decina d'anni fa, eri uscito con vari dischi, come i Carnevali nel 2015, il disco Omaggio a Piero Ciampi nel 16, e il famous Local Singer del 2013, no? Con l'orchestrino. Ecco, questo Storie Assurde, anche per il brano che hanno appena ascoltato i nostri ascoltatori, secondo me si ricollega molto, no? Al famous Local Singer e al Bobo Rondelli dei concerti live. Sì, sono brani che avevo sempre non considerato per mettere un disco proprio, no? Però sono quelli più alla fine che dal vivo faccio più, non dico volentieri, ma no, faccio più volentieri anche per tirare un po' su gli animi, no? Perché c'è bisogno anche di ridere, secondo me, di questi tempi, capito? È Mantenuto, poi sì, è una canzone proprio estremamente comica, secondo me, anche cinematografica. C'è anche il film di Tognazzi, mi sembra, sì. Che c'è Tognazzi Mantenuto, e poi c'è anche Marcello Mastroianni, tu capisci? Ma che certo. Ci faccio io qui? Sì, vabbè. È la prima volta, vero, che inserisci la voce, diciamo, di Marcello Mastroianni, che tu, insomma, per chi ti conosce da tempo, tu la fai da tanti anni, e tra l'altro, insomma, sei anche il doppiatore ufficiale quando bisogna, insomma, risistemare l'audio dei vecchi film di Mastroianni. Ma è la prima volta, vero, che inserisci in una canzone registrata? Che l'ho inserito, sì. Insomma, sì, non ho detto che è Mastroianni, faccio solo la voce, probabilmente, però qualcuno se lo ricorda, ecco. Quindi, sì, l'ho inserito perché... anche lui rientra in questa situazione comica del Mantenuto, insomma, una festa, si trova anche lui. Ascolta Bobo, la domanda è un po' alla Lubrano, un po' retorica se vuoi, ma quanto c'è della tua vita in queste storie assurde? Per certi, Mantenuto, ecco, è sempre stato un'idea, un sogno della mia vita, nel senso, così, l'ultimo modo, insomma, dalla disperazione che viene, no? Con i pensieri, cosa farò da grande, il Mantenuto è sempre stato, tra virgolette, ridendo, un mio obiettivo, ecco. In realtà, quando mi sono trovato con donne, diciamo, benestanti, erano più tirchie di quelle delle commesse, diciamo, capisci? Perché probabilmente c'è anche il detto che dice Madonna, ma è tirchia, se non era tirchia spendeva tutti i soldi, capito? In una donna benestante c'è anche la paura di avventurarsi nello spendere, ecco. Il mantenuto è anche il brano appunto con cui si apre il tuo nuovo disco Storie Assurde, che è uscito da pochissimo, è uscito lo scorso mese di giugno. Immagino tra l'altro che quest'estate lo porterai in giro come minimo per la Toscana e la tua Livorno, ma forse anche nel resto d'Italia, sì. Mi auguro. Sì, sì, siamo stati qualcosa, sai, però siamo le solite, sai, principalmente io ho sempre suonato più in Toscana, anche perché ci vuole, non so, una promozione più forte, oppure sono stato anche a Milano, a dire il vero, ho anche riempito un teatro, il Bella, come si chiama, conosci il teatro di Milano dove c'è la palestra dei Visconti sotto? Non mi Bella. Ricordo il nome, ho capito, sì. Però sai, siamo anche una band grossa a sto giro, cioè sì, contrabbasso, due chitarre, batteria, allora sono molto molto bravi, questo lo si sente dal disco, perché il disco è stato un po' buttato giù velocemente, senza troppe, no? Sì. È un po' fresco, perché quando poi rifai, no, la parte, la riregistri, perdi comunque di entusiasmo. E in questo disco si sente una sorta di entusiasmo come fosse dal vivo per certi aspetti, ecco. Sì, infatti te lo dicevo all'inizio, mi riporta un po' indietro al famous local singer, no? Che anche lì era accompagnato dall'orchestrino, che in realtà erano molti, molti membri, non era un'orchestra proprio piccolissima, e anche lì c'era questo spirito live. Ascolta, ci andiamo ad ascoltare la canzone che dà il titolo al disco, Storie Assurde, poi rientriamo qui insieme a te. Guardo l'erba da sdraiato, ora sono microscopico, libero fra le nuove dimensioni. Prendo il cielo per la mano, passa lento un aeroplano. E volano le mie inquietudini. Poi ripenso a una vita sbagliata, dalla colpa al destino, e da casa da solo mi bevo 2 litri di vino. Nell'armadio mi son chiuso, come in grembo ritornato, libero dal prendere decisioni. In un sogno mai sognato, né presente né passato, e to go dalle attuali situazioni. Poi ripenso alla vita sbagliata, dalla colpa al destino, e da casa da solo mi rollo e mi fumo uno spino, e vado in paranoia. Vado in Messico, così evado anche il fisco. Questa è Storie Assurde, dal nuovo disco di Bobo Rondelli, omonimo, e Bobo è qui in collegamento con noi, ne stiamo parlando con lui. Bobo, Storie Assurde, ma a proposito di storie assurde, di autobiografia, di quanto c'è di tuo in questo disco, ecco, ricordo anche ai nostri ascoltatori che nel 2019, ne avevamo parlato anche qui in radio, era uscito un tuo libro dove in realtà raccontavi tante cose che avevano a che fare con la tua vita, con la tua biografia, con tanti aneddoti, che era Cos'hai da guardare. Insomma, alla fine però la tua sua vita, anche se magari è solo sognata come quella del mantenuto, in visione, una visione ironica, o invece storie reali, è stata sempre, no, una delle basi per la tua scrittura. Sì, sì, questo è vero. Ho sempre cercato, insomma, di raccontare la verità, insomma, anche perché poi la cosa diventa più vera, no? Non sono però un creatore di immagini, di poetiche, capito? Più che altro questi racconti, diciamo, da cantastorie, se vogliamo, su me stesso, ecco. E Storie assurde, sì, è una delle canzoni più giovanili che avevo già inciso un altro disco che si chiamava Wonder Egg, però non mi è mai piaciuto l'arrangiamento. E anche nel primo addirittura, perché era fatta rock, capite? E non mi piaceva, a questo punto ho deciso di rifarla come io avrei voluto, senza che i discografici dicessero, capito, di modificarla per renderla più inerente al disco da cui usciva. Ho picchiato la testa e quindi la trasformavano in rock, poi reggae, insomma. A sto giro è una ballata così, in certi aspetti gabriana, sì, ma non me ne vergogno, ecco. Al contrario. Ascolta, c'è un altro brano che chi ti ha seguito live lo ha ascoltato sicuramente, che è La Chiappona. Ecco, La Chiappona è, tu prima parlavi, dici voglio fare anche un disco allegro, un disco che si sente, no, che è quasi impresa diretta in realtà, come un concerto. Ecco, La Chiappona, in un mondo in cui ci sono due guerre che sembrano non avere fine, usciamo da una pandemia, l'estrema destra sta guadagnando voti dovunque, eccetera eccetera eccetera, insomma, uno ascolta La Chiappona e si fa due risate. È una delle canzoni, insieme ad altre che poi magari, di cui parleremo, come anche il Gigolò, che ci fa fare un sorriso. È anche un po' vera, perché alla fine, pure se scoppiano bombe, no, te comunque guardi sempre una donna che passa, specie quando passa e poi va via di schiena e te gli dà un'occhiata, no? Questo è quello che un po' facciamo tutti, no? Non credo sia grave questo, però una volta se ci fischiava a una donna che passava, e anche questo non credo fosse stato grave. A me non mi ha mai fischiato nessuno, mi sarebbe piaciuto, capito? E poi è un omaggio anche alla donna che si porta, diciamo, le chiappe così in libertà, sempre non presa dalla palestra, dal voler dimagrire, dal voler apparire, che vive la sessualità più come una gioia, un ridere, capite? È un omaggio a queste donne un po' degli anni 50, ecco. Poi che dire, ma ascolta, poi sì, c'è l'entrata di un personaggio non misterioso che abita all'Aiatico, no? Che sarebbe Andrea Bocelli, giusto? Perché, esattamente. All'Aiatico, dal vivo racconto tutta la storia proprio, nel disco non ce l'ho messa, vabbè. No, magari ce la puoi raccontare qui oggi. Lunga. Io mandai un'email a lui dicendo: lo so che probabilmente non leggerete questa lettera, ma io la mando, insomma. E però mi rispose la moglie, sai, così, perché io volevo duettare La Chiappona con Bocelli in fondo, così mi avrebbe tirato fuori da tutti i guai economici, capito? E così, peccato non ha accettato. Secondo me se ne potrebbe anche pentire lui alla fine. Però la moglie di Bocelli ti aveva risposto alla mail? Sì, sì, mi rispose dall'email dicendo abbiamo sorriso tantissimo, però insomma ci dispiace, ma non è la canzone adatta per Bocelli. Perché in fondo c'è che rifà miracoli, danno vista anche ai ciechi, no? E cantano al cielo felici come cantanti lirici. Si capisce il riferimento, ma insomma, dai. Ascolta, ce l'andiamo a ascoltare, perché così anche chi ci sta seguendo qui oggi in diretta su Radio Contrabbando, sta ascoltando il podcast, capisce meglio anche i riferimenti che stai facendo tu, e poi ritorniamo qui un'altra volta insieme a te. Questa Scusami, dimmi. Ma siamo in Spagna? Siamo in Spagna, siamo a Barcellona. Ah, allora, non credo le arriverà l'intervista a Bocelli. Va, ma se no, se vuoi gliela mandiamo via mail noi. No, meglio di no, ma porto anche il timore di essere arrestato. Ma no. Anche se magari farebbe pubblicità, chi lo sa. Infatti, questo non si sa mai. Comunque dai, noi nel frattempo ci ascoltiamo La Chiappona e poi ritorniamo qui insieme a te. Bella Chiappona che sei, cuscino dei sogni miei. Quando passeggi in cancelli tutta la tristezza che c'è, belle chiappone che c'hai, sogno di mille fornai, ti vedono impastano il pane più buono del mondo che c'è. Fischiano gli uccelli dagli alberi se sentono passare te. Passi e rivedo mio padre e la sua testa voltare, ed io cominciavo a capire e lui mi insegnava a fischiare. Chiappe che fanno miracoli, che dan la vista anche ai ciechi, che cantano al cielo felici come cantanti lirici. In fondo alla vita tutta la gioia per te, in fondo alla vita tutta la gioia per me. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Se tu vuoi andare a Volterra tu devi passare sempre dai la la la la la la la la. Questa era la Chiappona, Bobbo Rondelli qui con noi a Zibaldone Radio Contrabanda per presentarci Storie Assurde, il suo nuovo disco uscito a giugno di questo 2024. E Bobbo, insomma, da Mastroianni a Bocelli, anche se entrambi non sono citati, tante storie assurde, insomma, l'obiettivo di una vita di essere il mantenuto, le chiappone che gironzolano qua e là, e noi ci salutiamo con un'ultima canzone che è Il Gigolò. Ecco, insomma, è un altro dei personaggi che ritorna prepotentemente in fin dei conti, no? Sì, sì, Gigolò, probabilmente si va sulla pellicola di American Gigolò con Richard Gere o Gierbo. Ti ricordi American Gigolò? È come? Un film, no? Sì, ma qui è comunque, vabbè, il Gigolò, American Gigolò, che fa un po' una brutta fine, ecco. Po' anche una presa di giro a chi vuol fare il gigolò, a chi si ritiene bello, sai. Questo, infatti, insomma, c'è sempre l'ironia e l'autoironia. Ma infatti, ascolta, finisce un po' male adesso, poi tanto, insomma, l'ascolteranno anche, no, i nostri ascoltatori questa canzone, che la mandiamo in onda tra poco. Però in fin dei conti è che questo gigolò un po' americano, no, alla Richard Gere, alla fine, insomma, è contestualizzato nella realtà italiana. Certo, sì, sì. Infatti ripartono dei ricordi, perché aveva rimosso cose che erano successe in gioventù, poi vengono fuori, insomma, chiama un prete, Don Mario, insomma, poi c'è un Matteo, capo dei Boy Scout, e si capisce che sarebbe, insomma, Matteo Renzi, ecco, che sono, diciamo, dei sodomizzatori. Ma infatti, per chi ti ha visto live, immagino che anche questa canzone non è sconosciuta, e quindi approfitto anche per invitare tutte le persone che sono all'ascolto di quest'estate, andare a vedere dove suona Bobbo Rondelli, andare a godervi uno di questi concerti, perché insomma, secondo me, non solo la Chiappona o il Mantenuto, ma anche il Gigolò salterà fuori magari verso fine concerto, e qui ovviamente non diciamo diciamo altro, perché le cose belle sono sempre quelle da vedere dal vivo con un po' di sorpresa. Bobo, un'ultima domanda prima di salutarti. Prima nominavi un disco che è uscito ormai 30-31 anni fa, no? L'Ottavo Padiglione. Nominavi Ho picchiato la testa, il primo singolo, ancora si può trovare online il videoclip. Ecco, sono passati 3 decenni. Tu ogni tanto ci pensi, insomma, a tutta la strada che hai fatto, all'esperienza con l'Ottavo Padiglione, a quelle prime canzoni, in un mondo che era un po' diverso, ecco. Mi è venuta una frase ora da dirti, che è: chi ci pensa è perduto. Sul passato, sai, meglio guardare avanti. Sì, guardare avanti. Comunque, sai, diciamo, gli indebitati guardano sempre avanti, insomma, per risolvere questi dannati problemi che abbiamo, come diceva Piero Ciampi. Sì, Piero Ciampi, ricordo ancora il tuo disco che è uscito nel 2016, Bobo Rondelli canta Piero Ciampi, un disco doppio dopo un bellissimo concerto, no? Dove cantavi il tuo concittadino in un teatro di Livorno. Bobo, ci salutiamo allora con il Gigolò, noi ti ringraziamo di essere stato di nuovo con noi, ti mandiamo un abbraccio e in bocca al lupo per questi concerti estivi e per Storie Assurde. Ringrazio te davvero, Steven, sempre poi è ferrato, come si dice, le domande, insomma, che segui, diciamo, chi vai a intervistare, ecco. Altre volte, no, ti devi raccontare, dice, io canto, mica racconto, No, ma tu sai raccontare molto bene, non solo ma, per insomma, il libro, lo sappiamo, e poi insomma intervistare un amico come te e un grandissimo artista è un onore e un piacere. Ti abbraccio forte, ci ascoltiamo. Grazie. Il Gigolò, e mi auguro che ci si veda presto. Ciao, abbraccioni, ciao. Je rencontré les gigolos de Rotterdam. Bella la vita, Rotterdam. Fare l'Italian gigolos con belle fiche e restaurants, champagne, spaghetti e bourguignon. E mentre suona il fabulous, alla toilette lei se ne va, è già mezz'ora sono qua, seduto solo al restaurant. Arriva il conto, non tengo un soldo, mi prendo tempo e sto a pensare a chissà dopo come sarà. La polizia qui a Rotterdam, e rivedo gli amici del bar, invidiosi di me, che gran culo che c'ha, fa il gigolo a Rotterdam. Guardo intorno e vedo che il Signore guarda proprio me, un vero grande gentiluomo. Lui paga il conto al maggiordomo. Oh, grazie tante del favore, in qualche modo renderò. Lui dice: no preoccupazione, abbiamo già la soluzione. Sto qui seduto in questa macchina e poi nel lusso di un grande hotel, un letto singolo. Ha ragione, i debiti sono debiti, ha ragione. Ah, lei vorrebbe fare da protagonista, ho capito. Guardi, sarebbe la prima volta, non proprio perché in parrocchia. Ma ho rimosso quei ricordi. Mi raccomando, sia dolce, faccia piano, eh. Oh! Bello far frigezzo col culo di quell'altri, Scusate, una musica dolce, è la prima volta. Oh, quanti funghi! Un funghetto talala, due funghetti talala, Don Mario! Li prendo io, funghetti! Ah, sì, ho capito, lei c'ha il mal di schiena. Li prendo io, perché non mi fa prendere a Matteo, quel capo dei Boscout lì? Ho capito, lui si sta allenando per un futuro suo, ho capito. Basta, basta, i ricordi. E rivedo gli amici del bar, invidiosi di me, che gran culo che c'ha, fa il gigolo, pardon, rotto in culo a Rotterdam. Film di cinema. Tu dici. Un film raga. Tu dici. Un film snare. Basta. Un film che ha fatto l'America. Tu dici. Capitolo 1 dal 4 luglio. Capitolo 4 dal 15 agosto. Capitolo 2 mai venduto. Basta parlare. Vabbè, sono tornate anche gli spot, gli advertisement, le pubblicità del nostro Zibaldone. Banzo, ecco, non so se tu vuoi aggiungere brevemente un commento, perché io non ci ho capito molto. Siamo in due, Steven, però diciamo che potrebbe essere un modo per suscitare la curiosità dello spettatore e portare la gente al cinema, perché cioè, può essere interessante comunque dire: guarda, non ho capito nulla di questo trailer, devo andare in loco a chiarirmi le idee. Ecco, potrebbe essere anche, c'è questa cosa dei capitoli, la prima parte, la quarta parte, la seconda parte, vabbè, andremo a vederlo, no? Ma andremo a vederlo, perché mi sembra che non, cioè, non lo so, non so se andremo a vederlo, però dai, insomma, proveremo ad andare a vederlo. E ecco, bravo, ecco, guarda, il realismo, ecco, non allarghiamoci troppo. Ecco, insomma, lasciamo un po' aperte le cose. Detto ciò, Banzo, un commento sul brano del gigolo di Rotterdam del nostro Bobo Rondelli, visto che insomma abbiamo occasione, mi piacerebbe sapere un po' la tua. Ma insomma, Bobo ormai lo conosciamo, però ascoltando la canzone stavo pensando che era proprio questo talento straordinario nel prendere lo spazio appunto di una canzone e trasformarlo in un palcoscenico, perché in questa storia assurda succede veramente di tutto e Bobo fa tutte le parti praticamente con grandissima abilità e soprattutto senza prendersi sul serio neanche per una frazione di secondo, quindi insomma alla grande. Eh sì, insomma, è sempre bello avere ospiti come Bobo Rondelli. E noi abbiamo ancora un po' di minuti qui su Zibaldone e vogliamo proporvi alcune news che sono uscite in Italia nell'ultimo periodo. E tra l'altro c'è un duo molto interessante, quello formato da Mimì Sterrantino e Davide Campisi, cui abbiamo mandato qualche settimana fa già una canzone. Il loro nuovo album si intitola Du, ossia D-U, due lettere. E però non è cantato in tedesco, perché no. Du in tedesco vuol dire tu, però. No, non è cantato in tedesco, anzi siamo proprio dall'altra parte dell'Europa, perché siamo in Sicilia ed è proprio in siciliano questo brano che è stato scritto da Mimì Sterrantino. Il disco è una collaborazione, quindi ci sono brani scritti dall'uno e brani scritti dall'altro. Quello che vi proponiamo è scritto da Mimì Sterrantino, si intitola, spero di pronunciarlo bene, L'Udiu Cavaiu Circannu, e è un brano dedicato agli animali predatori che popolano, spiegano proprio i due autori, le campagne del Castemolese negli anni appunto della loro totalità, negli anfratti, nei luoghi più impervi da raggiungere. In fin dei conti, dicono, è una lode a quella che è la loro libertà, quella degli animali, e una lode a madre natura, no? Insomma, che Mimì Sterrantino ha sempre considerato come una divinità da venerare, come avevano già fatto in fin dei conti le popolazioni della preistoria fino ai nativi americani. Banzo, ce l'andiamo a sentire e poi magari mi piacerebbe avere un tuo commento. Dimmi. Ma guarda, comunque un'altra dimostrazione del titolo del nostro programma: siamo passati dalla canzone Il gigolò di Rotterdam agli animali predatori con una nonchalance incredibile. Ascoltiamo il brano. Zibaldone, che ti devo dire? Esatto. Lo prometto già su. fogliero, te mulaghi di ligonche, a diventare gialla attorno ai colori di ste campagne. La murti aprì una caccia, come nai da sti pedi pedi, e da non si fa vedere un topo caro della sale penne. A niente serva corsa o nocente coniglio, salute lo stomunno, non si scappa do caccia vento. A te a canno io te poti comandare incatenare, io ti porto lo me rispetto se lo dio cavai cercanno. A te a canno io te poti comandare incatenare, io ti porto lo me rispetto se lo dio cavai cercanno. Da lo menzo di li rami, Italia muda e calma, aspetta sotto all'occhi se ti la bocca. Normale è duce che passa sotto all'arbore a minicino, si etta con tutta forza, carca l'ogni e muore lo surici. Sciscia mensa l'erba sicca, miura come lo carbone, con l'amante da sincizza, da lo mese dell'amore. Torcioneata sotto i unchi da vicino allo stagnone, c'è la serpi che appostata e parla la pompa saporita. A ti a canno io te poti comandare incatenare, io ti porto lo me rispetto se lo dio cavai cercanno. A ti a canno io te poti comandare incatenare, io ti porto lo me rispetto se lo dio cavai cercanno. Bello questo rock dalla Sicilia di Mimì Sterrantino e Davide Campisi, Banzo, un bel pezzo, credo che questo sia piaciuto anche a te. Beh sì, diciamo che non sono in grado di farti un'esegesi del testo, immagino, per mie ovvie lacune linguistiche, però il ritmo era semplice ed efficace, l'andamento del brano era coinvolgente, quindi ci sono rimasto appeso molto facilmente, anche se insomma il testo si capiva solo a momenti, perché insomma un giorno studieremo anche questa lingua, Steven, perché se si potesse le studierei tutte. Ma rimaniamo in Sicilia comunque anche col prossimo brano. Bravissimo, rimaniamo in Sicilia e parliamo di un artista che è insomma una, in spagnolo si direbbe una vacca sagrada, cioè una grandissima artista, ossia Rosa Balistreri, che non ha bisogno di presentazioni, di cui abbiamo parlato in più occasioni anche in questi anni qui su Zibaldone, e ne parliamo a partire da una nuova canzone che è uscita un paio di mesi fa, di Gabriella Lucia Grasso. Lei è una cantautrice, una compositrice, un'attrice catanese, che ha composto questa canzone che si intitola semplicemente A Storia di Rosa, e che anticipa un suo disco, che tra l'altro è un progetto portato avanti, costruito insieme ad Amnesty International Italia, dedicato alla storia di tante donne che sono state con coraggio, con insomma anche pazzia purtroppo per i tempi in cui hanno vissuto, sono riusciti a cambiare il proprio destino e hanno cambiato anche la storia in fin dei conti di tutti noi e del nostro paese, e non solo del nostro paese. L'album si intitolerà Sognatrici e vedrà la luce a settembre e nasce da un docu show ideato e portato in scena da Gabriella Lucia Grasso insieme a Valeria Benatti. Ecco, non si può non cominciare, io credo, un progetto così se si è siciliani senza parlare di Rosa Balistreri. Quindi, Banzo, io direi andiamoci a sentire questa canzone e godiamoci A Storia di Rosa di Gabriella Lucia Grasso e poi rientriamo qui a Zibaldone per i minuti finali che ci rimangono di questa puntata. Sei d'accordo? Sono assolutamente d'accordo, perché il tempo stringe come al solito in radio, quindi passiamo al brano. Eccola qui, A Storia di Rosa. Nudo ti pensava, nudo ti parlava, tutti affari finta a musciare l'aria intera. Nudo ti grideva, nudo ti acclamava, arrestasti sulla che mudanne a gannottera. Ma Rosa, nudo scrissi per te, tu facesti la storia. Sai miracolosa, tutti approfittavano e tutti ti toccavano, ma poi lo canto che tu forte carapeva tutti forti, che tu è solo to. Nudo ti aiutava, nudo ti vireva, tutti intenti all'inchiri avanzando a panzera. Tu che ci incisti, che ti ispirasti, oggi su vermi e tu da testa ne restasti. E Rosa, non tu scrissi per te, tu facesti la storia. Rosa, Rosa, la tua forza fu assai miracolosa, tutti approfittavano e tutti ti toccavano, ma poi lo canto che tu forte carapeva tutti i porti, chi due solo to. Sei miracolosa, tutti approfittavano e tutti ti toccavano, ma poi lo canto che do forte carapeva tutti i porti, che do è solo to. Che bella, è molto bella questa canzone di Gabriella Lucia Grasso, A Storia di Rosa. Banzo, noi rimaniamo ancora in Sicilia in realtà, perché ci rimangono ancora alcuni minuti e vogliamo regalare ai nostri ascoltatori un brano in una lingua che è molto particolare. Allora, Steven, è curioso perché con Bobbo ovviamente si era in Toscana, però dopo ci siamo spostati in Sicilia con moltissima decisione e rimaniamo qui quasi fino a fine puntata, perché l'ultimo brano ovviamente sarà diverso. E, beh, sì, Eleonora Bordonaro, andiamo a sentire un brano di Eleonora Bordonaro che avevamo già ascoltato qualche mese fa, e lei canta in dialetto gallo-italico, è anche lei siciliana, ma si è sempre occupata delle isole linguistiche che persistono in Sicilia e non saprei dire il titolo di questo brano in siciliano standard, però mi sembra diverso, ecco, sì. Così comunque, a occhio croce. Il disco è uscito a inizio marzo, si intitola Roda, che in gallo italico vuole dire lei. Noi adesso vi proponiamo un brano che si intitola invece in modo diverso ed è, adesso ve lo dico subito, perché si intitola Culaur Sgargent, che Però, come potete capire, in realtà, Banzo, qui c'è la ragione del gallo italico, che è che il gallo italico si parla, è una lingua che viene definita resistente, e si parla solo praticamente in un comune di poco più di 3.500 abitanti. Il comune si chiama San Fratello, in provincia di Messina, ed è una lingua praticamente che ha delle influenze che sono legate alla presenza, ormai parliamo di 1000 anni fa, di quello che è il lombardo di Sicilia, ossia è un dialetto composto da frammenti di varie parlate del nord Italia, formatosi in seguito all'arrivo in Sicilia di soldati e coloni durante la reggenza di Adelasia del Vasto, della dinastia normanna, originaria del Monferrato. Stiamo parlando dell'undicesimo secolo. E quindi, diciamo, insomma, in questo piccolo comune Eleonora Bordonaro ha fatto un lavoro durante anni tra giovani, vecchi e bambini che ancora parlano in questo fazzoletto di terra di pochi chilometri quadrati questo dialetto, questa lingua, e lei lo spiega così: l'idea era quella di testimoniare, dice Eleonora Bordonaro, una lingua che combatte per rimanere in vita, testimoniarla attraverso l'integrazione del mondo sonoro tradizionale del luogo, cioè quello dei giudei, con la creatività contemporanea, perché sentirete che la canzone più tradizionale, la canzone d'autore, se volete, si mischia anche all'elettronica. I testi, dice ancora Eleonora Bordonaro, sono originali e sono dedicati al racconto del rito, prendendo spunto da episodi vissuti durante gli anni della mia frequentazione della festa di Pasqua, e sono stati ispirati da autori locali o semplici informatori. Insomma, Banzo, io forse dopo tutta questa presentazione, non voglio annoiare oltre i nostri ascoltatori, andrei ad ascoltarci il brano e dopo ci vorrebbe un tuo commento, d'accordo? Sono prontissimo, andiamo col brano, Steven. Eccola qui, Eleonora Bordonaro. Culo sgargiant e al mot in testa, culo sgargiant e sprion. Culo sgargiant e dangue tu fuori. Blino Culaur Sgargente, Leonora Bordonaro, Banzo Telegrafico, un tuo commento ci serve proprio. Beh, allora, il brano molto baioso ci accompagna alla grande alla fine della puntata e devo dire, curiosamente, pur essendo io insomma del nord Italia, in qualche modo mi risultava più facile capire i testi in siciliano standard del dialetto gallo-italico, che in teoria dovrebbe avere più influenza del nord, però diciamo che si spiega anche con la circolazione culturale del siciliano, però è uno straniamento curioso, appunto un'isola linguistica in un'isola fisica, ecco. Eh sì, proprio così. Ascolta, siamo ormai agli sgoccioli, ci rimane il tempo proprio per l'ultimo trago, andiamo negli anni 70, no? Sì, andiamo negli anni 70, che sono un decennio che a noi piace molto, e l'occasione per farlo è un compleanno, perché tu sai che la nostra rubrica finale è un po' l'almanacco del giorno dopo di Tibaldone. E ecco. E quindi oggi è il compleanno di Flavio Paulin, che compie 76 anni. Auguri! E Flavio Paulin è un nome poco noto come solista, anche se incise un album di tecnopop Paulin nel 79, molto, molto particolare, però tutto il mondo lo conosce come prima voce dei Cugini di Campagna, ecco, qui già lo abbiamo collocato. E quindi andiamo ad ascoltare la canzone più celebre dei Cugini di Campagna, che non è Stalingrado la fabbrica, ma Anima mia, in una versione spagnola del 1975. Due parole sul gruppo: sono i Santa Barbara, che però all'inizio si chiamavano Epoca e suonavano hard rock, poi passarono al soft rock. Ecco, come Epoca avevano inciso un brano che si chiamava No Estoy Bien, mi sembra molto particolare, sì. Qui invece andiamo un po' sulle cose più sentimentali, ecco. E Anima mia si trasforma in Cariño mio, appunto, in questa versione di Santa Barbara. Vabbè. Comunque è una canzone che non è stata incisa solo in spagnolo, ma anche in francese da Dalida e addirittura in svedese da Frida degli Abba. Pensate. Vabbè, quando faremo le canzoni in svedese la manderemo in onda. Noi siamo arrivati alla fine, buon venerdì sera a tutti, grazie, risintonizzatevi la prossima settimana qui su Radio Contrabbanda per la penultima puntata della stagione di Zibaldone. Grazie Banzo, e come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, alle 17.56 diceva tutti i venerdì: visto che sono i Cugini di Campagna, forse devo fare l'ultima frase in falsetto? No, forse no, perché il brano non è in falsetto, comunque, come sentirete. Va bene, Banzo, stammi bene, a venerdì prossimo, bye bye, fate l'amore con il sapore. Descalza por la calle caminava, lo mismo che una sombra me siguió. Su gesto como si retara al mundo y todos esperasen su perdón. Hicimos el amor con alegría y luego nos miramos sin hablar. Quisimos encontrar nuevas palabras que juntos no supimos inventar.